Già la stringo, già la abbraccio, con la forza del mio braccio, lo tengo lato da te, e si vinto o non si rende, perché madre non è vento, marcia ancora si può guerra, e si vinto o non si rende, perché madre non è vento, marcia ancora io sfido a me. Thank you.